qualcuno su 10? C'è qui canale 10, c'è qualcuno? Ora, c'è qualcuno su 10? Sì, io ho appena sceso. Oh, ciao, vabbè, allora. Buonasera, un attimo, sono tutto da fare, non ci ho poi riprendo. Ok, vabbè, sono qua. Roberto, ci sei? Buonasera. Buonasera. CQ 10, CQ. Ti ho risposto, buonasera, ho detto. Ah sì, ciao Giulio. Non ho sentito perché su questi apparecchi nuovi, quando metti il coso automatico, questo coso qua che si chiama ASC, una cosa del genere, se uno fa un passaggio un po' lunghetto lo pensa che sia un disturbo, non si sente. Queste cose nuove, non è detto che funzionino bene. Buonasera comunque Giulio, sto bene? Sì, sì, tutto bene Gianfra. Infatti ero in attesa, poc'anzi mi ha risposto Eugenio da Porto Torres, è andato a fare la doccia, ha detto fo solo qua, dovrebbe rientrare fra qualche minuto. C'è qualcuno sotto che sta chiamando? Non lo so, io non sento nessuno. Solo sono, Gianfra. Può darsi che tu senti qualcuno di propagazione, non lo so. Sì, i soliti tedeschi che sono FM. Niente, oggi è una giornata bella ma molto, molto, molto fredda. Sì, ormai siamo entrati nel periodo del freddo, e più si va avanti e più avremo freddo sicuramente, dunque dovremo coprirci e soprattutto scaldarci quando siamo a casa. Sì, ma dimmi una cosa Giulio, tu che magari sei più informato, ma cosa è successo stamattina? Perché io sto andando, volevo transitare nel coso lì, nel viadotto, era tutto chiuso, c'erano pattuglie a nastro, vigili del fuoco, ambulanze, che cavolo è successo? Sono figurati che da lì non riuscivo neanche a scendere verso il ponte di Rosello, no? In modo da fare il giro della città, sono dovuto ritornare indietro, imboccare la 131 e siccome dovevo andare lì alla fine di via degli astronauti, passare addirittura da Piazza dei Segni praticamente. Quindi è una cosa che non ho capito cosa sia successo, proprio lì sul viadotto, a metà viadotto. Non ho saputo niente di questo particolare, adesso mi ho acceso e sintonizzo videolina, vediamo se dà qualche notizia, non so. Dunque, non so, guarda, il viadotto è un tratto di strada molto pericoloso, più di una volta la gente si capotta perché fanno le curve in una maniera un pochino sconsiderata e allora succede quel che succede, perché la strada non è che sia delle migliori, a dire la verità. Sì, c'è sempre più gente che non c'ha il non c'ha la capacità di vedere sia le distanze e sia la velocità che può essere rischiosa facendo una curva o facendo tante altre cose. Quindi c'è troppa distrazione, troppi telefonini in mezzo ai piedi e tutte queste belle cose. Ho visto lì, è di norma, queste cose sono successe le notizie, di quello di Ottava che si è sbattuto, non so, ha perduto il controllo e ha capottato, se l'è cavata per fortuna. Però ogni giorno c'è una, veramente. A meno che non si tratti di qualcuno di nuovo che ha tentato di buttarsi, allora in quei casi credo che non li mettano gli articoli. Sì, è vero, quello è vero. Sì, già da un bel po' di tempo quando succede così uno tentativo di suicidio o addirittura un suicidio non pubblicano più nemmeno sul giornale, proprio per non in modo che non faccia la caccia di risonanza, perché poi diventa un'abitudine. Ma cosa vuoi che ti dica? Oh Gianfranco, guarda che la gente dovrebbe essere un pochino vedo più responsabile, invece mi sa che sta perdendo la tramontana la gente, proprio sta uscendo fuori di testa in tante situazioni, non è possibile, veramente. Poi ci sono queste sconsiderate quando sono seduti su un mezzo a motore, sono proprio dei vedi disastri stradali, non è possibile, guarda, ma cosa volete dire? Io cerco di andare piano, perché è giusto che sia così, e soprattutto bisogna stare molto molto attenti. Soprattutto bisogna considerare che il pericolo viene sempre dagli altri. Da te personalmente può venire, sì certo, ma raramente. Però ci sono troppi sconsiderati in giro, guarda. Molta incoscienza, molta leggerezza, ma molto di tutto c'è in giro purtroppo. E quindi è così che si può fare. Non parliamo poi di quelli lì che hanno combinato tutto quel casino lì per un pezzo di carta, cioè, ma è una vergogna veramente. Nel momento in cui il paese sta cercando di rialzarsi, questi vanno a fare casino, anche stamane disordini a Trieste, che poi sono quattro gatti, non c'erano neanche tutti i portuali, era gente pronta fuori. Cioè, ma io vorrei capire una cosa, ma uno solo prende il treno a fare 100-200 km per andare a far casino, ma questi non lavorano, non c'hanno nient'altro da fare, qualcosa di meglio, andare a fare volontari, andare a assistere gli anziani. Veramente è una cosa allucinante, queste persone sono tutte grandi. Sono qua, buonasera. Ok, ciao. Oggi ben entrato. Sì, già fra, ma è così, guarda. Guarda, io intanto quelli li considero dei grandissimi delinquenti. Non solamente gente che non ha mai avuto voglia di lavorare, ma sono dei delinquenti, nel vero senso della parola. E poi si mettono a gridare libertà, libertà, libertà. Tu chiedi la tua libertà, è la mia la libertà. Non la consideri? E questo anche da... Ma cosa vuoi che ti dica? Poi fatti pensare che il 90% delle persone ormai quella carta ce l'hanno già e loro continuano a protestare. Ma cosa è da protestare? Deficiente, cretino, che non sei altro. Ma non fai più bella figura, vai, ti fai la puntura, ti fai la carta, ce l'hai senza nessun problema e non avrai nessuna restrizione da parte dello Stato, da parte di nessuno. Guarda, cosa vuoi che ti dica? Sono delle persone veramente in una maniera da considerare proprio gentaglia, per conto mio gentaglia. Io lo dico chiaro e tondo, è inutile stare lì a girarci attorno, ma io lo dico chiaro e tondo. Avanti Eugenio, buonasera. Buonasera a voi. Ciao Gianfranco, ben sentito, buonasera. Cosa vuoi che dica? Parlate bene dei portuali insegnanti, con i colleghi, parlate, a parte che non ci sono più portuali, che sono tutti non sono accesso, quindi stiamo giocando il portuale, nella foto 4, sono tutti non sono accesso, portuali non ce ne sono più. Quelli sono tutte persone che non hanno mai avuto voglia di fare niente nella vita. Io da un bel po' di tempo a questa parte, quando vedo queste manifestazioni così da cretini, perché sono assembramenti che fanno solo i cretini, le persone svogliate di ogni senso di fatica, cioè relativo al lavoro, io la penso in questo modo. Quelli trovano un'occasione per fare danno e soprattutto per divertirsi, perché per loro è anche un divertimento, visto e considerato che è nel loro DNA essere sovversivi. Vai, già fa. Sì, ciao. Mi sono dimenticato il nome, l'età fa brutti scherzi, c'è l'amico di Porto Torres. Ti ho sentito bene, molto bene all'inizio, poi c'è questo tedesco della versione FM che ogni tanto ti copre, propagazione con la bella giornata è ritornata. Giulio, boh, non lo so, io in tutta onestà oramai posso dire che non ci capisco più un tubo cosa vuole la gente, le cavolate che spara, boh, ma a volte penso che si stiano facendo tutti di roba proprio forte, siano che sia alcolici o siano, sia essa droga, perché l'imbecillità di questi livelli è difficile, veramente difficile da capire. Per chi perlomeno è abituato a lavorare e a lottare con i problemi della vita di tutti i giorni, non certo con un pezzo di carta. Oh, io, poveri noi. Ma, ecco Eugenio ci sta pensando, scusa, poco fa non ho imbattuto, ogni tanto mi scappa qualche nominativo. Riprendi Giulio? Ok, sì, perché così io non so, io quindi sulla lingua non ne ho, e questa gente li valuto per quello che mi viene da dire, e sono convintissimo che dico le cose giuste, non cose offensive nei loro confronti, perché quella è gente che meriterebbe altro che offese, meriterebbe colpi di bastone sulla schiena per addestrargliela bene, e in testa aprigli la testa e mettergli le parole dentro per fargliele capire, viste considerato che non vogliono capire i dialoghi civili, cosa volete dire? Comunque lasciamoli fare. Avanti Eugenio. Comunque vabbè, ripeto, per quali non ce ne sono più, se ce ne sono molto pochi, si contano sul palmo della mano, gli altri sono tutti non pazzi, la gente che lì e va così, non sono neanche loro a protestare. Sì, Eugenio, ma è così. Poi non è possibile, ragazzi. Adesso io ho pensato questo, premesso che io di politica non me ne intendo, però una mia considerazione personale la voglio fare. Adesso in questo momento c'è il Fratelli d'Italia che sono praticamente, stando alle statistiche e alle percentuali di voto in caso di votazioni, è il primo partito dell'Italia. Ma è possibile che la sinistra, che tutte le volte che c'è qualcuno che la minaccia di sfodestarli, debbano inventare sempre qualcosa? Ora hanno inventato la scusa del fascismo. Ma il fascismo è finito 70 anni fa e anche di più. E ormai c'è il comunismo che è sempre in azione, tipo che so io a Cuba, in Corea, in Russia e in altri paesi. Quello esiste ancora. Poi non è vero che sono tutti quanti fascisti o fascisti estremisti, come dice, c'è certa gente. Lì si sono infiltrati tutti i delinquenti, e ce ne sono, ma ci sono anche fascisti, certo, ma ci sono anche i comunisti, ci sono anche i sovversivi e i delinquenti soprattutto, che fanno danno alle città, alla gente che ha voglia di lavorare e di vivere tranquilla, e loro creano disagi e problemi. Purtroppo è così, vai già fa. Sì, per un attimo Giulio, figurati che quello lì si sentiva sotto di te anche parlare di quanto arriva a forza. Sai, ci ho detto che la mamma dell'imbecille è sempre incinta, ma veramente ne ha fatto tanti. Qua la politica poi non c'entra niente. Il detto fascista, diciamo fascista, non è tanto riferito a quello di Mussolini, eccetera, eccetera, ma più che altro oramai è un luogo comune per dire quelle persone che hanno un atteggiamento di certe squadracce che c'avevano all'epoca. Ecco. D'altronde, quando hanno fatto quella specie di comizio a Roma, molti hanno fatto anche il saluto fascista, quindi cioè si dovevano proprio distinguere, gente che poi dal fascismo non sa neanche cosa sia in realtà, però il riferimento a essere fascisti è proprio di fare quegli atteggiamenti di intolleranza e antidemocratici tipici di quella gente, ecco. Comunque, adesso che le cose vanno bene, tutti fuori stanno uscendo all'alza della testa, anche le pulci parlano. Prima che andava male, tutti buoni a cuccia, sempre a Sasturia. Riprendi Eugenio, non so se mi senti, perché presumo che anche da te stiano arrivando questi, quindi dovremmo essere al limite. Ogni tanto già qualche cosa, no? Mi sento anch'io. E comunque non è questione che vogliono, allora, questo è il vaccino, non è obbligatorio, ma stanno portando a fare obbligatorio. Uno dice, perché io non mi voglio vaccinare, però sto portando a farlo obbligatorio, e poi se non mi vaccino mi vuoi far perdere il lavoro. Tutto qua. E dovrebbe essere quella la scusa di queste manifestazioni. Perché chi non si vaccina viene allontanato praticamente dal porto. Noi purtroppo ne abbiamo allontanato uno, l'abbiamo messo in ferie proprio per non farlo, è leggermente lavoro e si è messo giù la capitaneria, e detto no, non va bene metterlo in ferie, però proprio sospeso, adesso domani deve andare a farsi il vaccino e rientrare a lavorare. Sì, ma è così, cioè il discorso è sempre questo. Io non dico che possa essere giusta la legge che hanno fatto di fare il Green Pass, che poi per quale motivo intanto ne parlano in inglese quando basterebbe parlare chiaramente in italiano. Significa lascia passare, vuol dire Green Pass, vuol dire lascia passare. Dunque parliamo intanto la nostra lingua per capirci ancora meglio anche. E io dico questo, se questa adesso è stata fatta una legge, tu la legge la devi rispettare, poi che sia giusta o sbagliata, questo è tutto un altro discorso, non c'entra proprio assolutamente niente. È inutile che vai lì a protestare e a manifestare, tu devi stare in maniera democratica, devi vivere in maniera democratica, perché questa è stata una legge, cioè sono tante leggi che non ci piacciono eppure le rispettiamo. Questa adesso a questo punto è diventata una legge, il governo ha fatto una legge obbligatoria, deve avere il Green Pass. Casomai l'errore che ha fatto il governo è che doveva fare, secondo me, io ripeto di politica non me ne intendo, però doveva fare direttamente il vaccino obbligatorio, e non c'era bisogno di questo Green Pass stupido e di questo pezzo di carta verde come la chiamano loro, secondo me, perché errori ne hanno fatto tantissimi, anzi hanno confuso talmente la mente della gente che anche questo può essere il motivo per cui tanta gente va a manifestare e a protestare. Io cosa vuol dire? Purtroppo la democrazia in Italia non c'è, innanzitutto dalla parte di chi ci amministra, perché il solo fatto che ci siano i comunisti già da 10 anni, dico comunisti perché sono di sinistra, cioè il PD, che non stanno altro che amministrare senza essere mai eletti, dimmi tu se questa è democrazia. Ripeto, io di politica non me ne intendo e non voglio giudicare, però certe considerazioni le faccio e penso che come le faccio io se le faccio tante altre persone. Vai Gianfranco. Sì, io penso che essendoci state comunque sempre, grazie a Dio, elezioni regolari, chi è stato eletto dal popolo in ogni caso, e quindi è la migliore forma di democrazia. Non mi risulta che ci sia gente messa lì tanto per esserci. Questo capita in altri paesi. E poi sì, su quello che era obbligatorio, che doveva essere obbligatorio, sono d'accordo anch'io, per un semplice motivo, che molte mamme sanno benissimo che se vogliono entrare e iscrivere il figlio a scuola, devono fare tutta una serie di vaccini di tante categorie, quindi alla fine dei giochi, di tutti questi ragionamenti, eccetera, sono scuse che non stanno in piedi, non sono neanche facili da capire. Giulio, io non so, tu indubbiamente sei molto più grande, ma penso anche nella tua epoca, quando siamo andati a fare il servizio di leva, nessuno ci ha chiesto il permesso, molta gente davanti a me svenuta, ci hanno iniettato quella cosa che poteva essere di tutto di più, perché erano vaccini antitetanici, tric e trac, e nessuno ci ha chiesto il permesso, e mica abbiamo scelto noi di fare il militare, ci hanno chiamato loro come cittadini, come tutti i cittadini, siamo andati, l'abbiamo fatto, abbiamo reso il nostro servizio, punto e basta. E quindi non capisco cosa c'entra e cosa si mette in mezzo la democrazia, la libertà, che sono valori che dovrebbero essere comuni a tutti, a prescindere da queste cretinate che vengono dette veramente da persone che hanno molta poca memoria e molta poca istruzione, se vogliamo. Comunque è tutto lì. Riprendi Eugenio. Bisogna avere più così c'è, provo a dire veloce, ci vuole più fiducia, ecco qua, ci vuole più fiducia nella scienza, perché molti dicono questo vaccino l'hanno studiato in 3 giorni, ma non è così. L'hanno studiato sì, in maniera un po' veloce, però insomma si sono messi tutti i medici del mondo assieme, quindi chi dice che praticamente modifica il DNA, queste cazzate, ho sentito un microchip, purtroppo c'è gente che ci crede e non è d'accordo e crea questi disagi qua. Sì, beh certo, anche quelle invenzioni che ci sono state, microchip, stupidaggini che hanno raccontato, è la gente cretina che ci ha creduto, che continua anche a crederci, per non parlare poi della disonestà anche di certi medici che stanno facendo il green pass così fasullo, i medici di famiglia, i medici di base, intendo, e più di uno ne hanno sgamato e sicuramente più di uno ne hanno denunciato. E spero che li avessino anche, perché non si fanno queste cose. Con 70 euro ti facevano bene le pace, così. Ma è mai possibile, senza aver fatto i vaccini? La cosa è l'altro mondo, guarda, è diventata una guerriglia disumana la vita dell'Italia e forse anche della parte di Europa, non lo so. Ma non è possibile che si possa continuare in questa maniera, assolutamente. Caspita, tralasciamo cose importanti da discutere veramente, e parliamo di questa cretinata che quando, come hai detto tu Gianfra, se ne facevano un mezzolitro sul petto, se ne facevano di vaccini di vario genere, senza prendere l'ordine da nessuno, anzi obbligato ad andare a fare il servizio militare, e adesso oggi per una puntolina da niente, che non la senti nemmeno, io devo essere sincero, quando sono andato a fare il vaccino, avevo dei dubbi che non me l'avessero fatto, proprio perché non ho sentito nemmeno la puntura del lago, nulla, nulla di nulla, veramente, guarda, sia la prima che la seconda volta, per cui, e oggi si lamentano per questa cretinata, che poi tutto sommato i numeri sono quelli che contano, perché l'anno scorso di questo periodo c'erano dei morti a camionate, li portavano via i morti, proprio perché c'era il contagio che era micidiale. Oggi come oggi, grazie a Dio, sta passando proprio per effetto dei vaccini. Avanti, Gianfra. Sì, secondo me troppi grazie dovremmo pronunciare a certi scienziati e a certe persone che hanno lavorato di corsa e bene per darci questo vaccino che ci ha salvati da una brutta fine, non solo da una fine diciamo intesa come fine in ospedale, ma anche da una fine di un crollo economico da cui veramente sarebbe stato quasi impossibile per noi rialzarci. Quindi continua comunque la gente a non vedere quello che sta succedendo in paesi come la Romania, in cui il numero di morti è veramente, sta crescendo a dismisura, perché sono pochissimi i vaccinati, e da tante altre parti. Anche il vaccino, ad esempio quello russo, che volevano tanto certi elementi che facevano le cose per conto loro, anche quello russo rispetto alla variante si è dimostrato inefficace, perché è stato il primo tra l'altro a essere fatto. Quindi diciamo, adesso stiamo bene, ma non è che possiamo cantare a tutti i costi vittoria, perché il virus c'è ancora. Attualmente siamo protetti dal vaccino, dobbiamo pregare solo che non ci siano varianti. È anche vero che le eventuali varianti potrebbero anche essere in positivo, come è capitato nella storia. Magari a posto di diventare più infettivo, questo virus si annulla e sparisce. Speriamo che prima o poi lo faccia. Ha detto bene Giulio quando ha detto che ci sono ben altri problemi. Noi ci dimentichiamo sempre che siamo in una situazione di altissimo rischio per quello che è il clima, e non si riesce a fare niente di buono lì. E di lì veramente speriamo bene, perché quello sarà il vero problema da affrontare, non certo un pezzo di carta. Riprendi oggi? Guarda, per il clima già stiamo facendo un fatto, soprattutto il caso di macchine elettriche, insomma, ci siamo accorti un po' di ritardo, però dai, ci stiamo lavorando. Per quanto riguarda il vaccino, vedi, in Cina l'hanno debellato, in Cina non c'è neanche più un caso, debellato, ma in Cina però sono rigidi, cioè voglio dire, sono proprio rigidi, lockdown, tutti chiusi in casa, non c'era uno in giro, capito, nessuna festa, niente, proprio debellato, non c'è manco più un caso. Anche noi ci stiamo allontanando, piano piano ci stiamo allontanando anche noi. Poi le varianti ci sono già state, c'era la variante londinese, non so cosa, l'altra, ma insomma, comunque ci stiamo allontanando da questa pandemia, piano piano, speriamo di riuscire a uscirne del tutto. E comunque i casi stanno sempre diminuendo, e niente. Le terapie intensive stanno respirando, e comunque qua in Sardegna sono già tre o quattro giorni che non c'è neanche un contagio, quindi... Vabbè, ieri ce ne erano 9, è un deceduto, oggi ci sono 18 contagi in Sardegna. Beh, diciamo che non solo in Sardegna, ma diciamo che in tutta l'Italia stanno diminuendo, però c'è da preoccuparsi, come ad esempio in Inghilterra ci sono 45.000, 50.000 tutti i giorni di contagi, e in Russia addirittura 1.000 morti al giorno, sempre per questo problema del virus. Bisogna che si mettano in riga anche loro, devono essere più corretti, più attenti. Noi qui in Italia, bene o male, il nostro lo stiamo facendo, anche se ancora c'è molta gente incosciente, devo dire che non è finita, anzi, bisogna avere sempre più precauzioni, proprio per evitare e debellarlo definitivamente. Ma dovrebbe essere anche il resto del mondo ad impegnarsi in merito a questo particolare, perché se no la situazione poi può riesplodere, perché è così, perché la gente viaggia e i contagi possono sempre ritornare, per cui è inutile che li diminuiamo noi se poi nel resto dell'Europa, nel resto del mondo c'è sempre il virus. Siccome oggi con la globalizzazione eccetera, anche nel mondo del lavoro eccetera, si sa, la gente viaggia, va e viene, e dunque può riportare anche i contagi, anche se poi sono state eliminate di qui dall'Italia. Speriamo di no, che non succeda. Avanti Gianfra. Scusate, io vi devo salutare, che non sono altro. Ciao, ritengo che vi salutate, ci sentiamo più tardi se ci siete. Ciao. Ciao Eugenio, buona serata e buon lavoro se devi prendere servizi. Alle prossime. Purtroppo purtroppo è così, ma guarda, io sono certo di una cosa, adesso noi stiamo parlando di questo virus, ma se non fosse stato il virus sarebbe stato qualche altra cosa, guardi, tanto la scusa c'è sempre, se non era virus, se non era Green Pass, o se non era qualcosa d'altro, l'avrebbero scovato qualche altra scusa per dimostrare, come facevano d'altronde quando c'erano le partite. Io penso invece a quei poveri lavoratori, che magari in tutte queste belle dimostrazioni di forza che fanno questi personaggi perdevano la macchina che serviva per lavorare, chi perdeva le vetrine tutte sfasciate, chi serviva il negozio incendiato e così via. E in tutti questi casi la gente deve sapere che le assicurazioni non pagano, perché se non si legge anche l'assicurazione della macchina, vedi che è escluso questo, è escluso quell'altro, perché sanno benissimo che non conviene pagare l'utente in questi casi. E quindi c'è gente veramente che c'ha un danno enorme, dopo tanti sacrifici per comprare una macchina o per comprare un negozio e così via, e nessuno li rimborsa. E appunto, una persona lavora una vita per crearsi qualcosa di positivo per poter andare avanti col suo lavoro, arrivano questi scalmanati e ti distruggono il negozio. Ma quando mai? Ma queste non sono cose che si possono accettare. Oppure uno si compra la macchina, ha fatto tanti sacrifici, magari la sta ancora pagando, arrivano questi delinquenti e te la incendiano o te la rovinano. Sono cose dell'altro mondo, non sono cose che si possono accettare così alla leggera, e ci mancherebbe altro. Dunque, queste sono cose che dovrebbero veramente cercare di eliminarle, ma chiaramente non siamo noi che dobbiamo eliminare, cioè noi di quintese come persone dobbiamo comportarci seriamente da persone oneste. Però visto e considerato che ci sono troppi delinquenti, c'è troppa delinquenza in giro nel mondo intero, allora dovrebbero entrare in ballo i vari governi, cercare di sistemare veramente queste situazioni. Non è possibile. Anche noi, se prendiamo noi nel nostro piccolo qui a Sassari, è una città che è stata sempre tutto sommato molto tranquilla, oggi addirittura si stanno formando le bande dei ragazzini che vanno lì ad urinare davanti alle porte delle abitazioni, passano un vecchio o un anziano, lo mettono in mezzo, lo picchiano e lo massacrano, oppure vai lì in Sassari del Basso, tipo via San Donato, eccetera, ci sono questi nigeriani lì che non ti permettono di dormire la notte, perché con la prostituzione che c'è, più il ciclo che si hanno aperto, non hanno fatto altro che fare chiasso e basta. Dopo una petizione di cose, di film, eccetera, finalmente sono riusciti a chiudergli questa specie di bettola che hanno lì, e dunque adesso stanno dormendo, però è solo per 3 mesi. Dopo i 3 mesi si vedrà, se sono in ordine li fanno riaprire, se non sono in ordine le prendono la licenza definitivamente. Io spero che sia così, perché non è possibile che la gente venga da fuori così e debbano gestire la nostra città, che è stata sempre una città tranquilla. Sì, quello è vero. Purtroppo ci sono questi atteggiamenti che non si riescono a debellare, perché questi pensano di essere a casa loro, ma a casa loro non sono, sono ospiti e come ospiti si dovrebbero comportare. In tutta onestà dobbiamo dire che è sempre una minoranza, come nei casi che dicevamo prima, perché alla fine sono 4 gatti che fanno danno. Però sai, come è successo probabilmente quando hanno mandato in croce a Nostro Signore, non è che ci fossero quelli che hanno detto no, non lo crocifiggiamo, no, è innocente, è una brava persona, solo che spesso quei 4 gatti che c'erano hanno la voce più forte, capito, e si fanno sentire meglio. Beh, certo che sì, perché sono gente che non hanno niente da perdere, dunque sono decisi e sono capaci di tutto, per cui, e poi la persona tranquilla, chiaramente quando vede un elemento del genere non si vuole nemmeno intromettere proprio per non avere conseguenze, perché oggi lo sappiamo, anzi non sappiamo in che maniera reagiscono questi delinquenti, perché per me sono solo delinquenti. Uno quando viene qua sarà, può essere anche ben accetto, nessuno le dice che non debbano venire, però ti devi adeguare alle nostre regole, devi essere una persona seria, non puoi tu venire qua a rivoluzionare e impiantare le evoluzioni e di punto in bianco così e fare danno, ma scherzando siamo, questo non è accettabile. E speriamo proprio, guarda, che con la situazione di via San Donato, povera gente, non riescano ad eliminare definitivamente questo problema. Io le auguro proprio a tutti quelli che abitano lì in quella zona, tutta gente povera, gente di onesta, ma gente poverissima, che non saprebbe nemmeno dove andare al di fuori di quelle piccole casette, perché sono tutte case praticamente padronali, e solo quello hanno, solo quello possiedono, e di voi togliere anche quella possibilità? No, non è possibile, Giafra, vai. A livelli Luffi, buonasera, stiamo arrivando. La settimana scorsa hanno messo pure una bomba vicino alla chiesa, la Perugonti. Appunto, ciao Natalia, appunto, perciò non sono cose accettabili, guarda, anche noi che siamo stati sempre un popolo di gente pacifica, magari con gli strapotenti, i buffoni più che altro, non strapotenti, buffoni, perché nel DNA del sassarese io non voglio negare questo, però gente tranquilla, gente che vive in amicizia, gente che vive con la testa sulle spalle senza andare a fare danno, invece da un bel po' di tempo a questa parte sta diventando proprio una vergogna nel vero senso della parola. Vai Gianfranco. Sì, ciao Natalino televisore, mi hanno ascoltato da un po'. Ed è così, purtroppo è un mondo complicato, è un mondo complicato, c'è niente da fare, e quindi bisogna viverci. È guai per un anziano comunque entrare nel merito, perché spesso poi finisce in tragedia, quindi meglio affidarsi sempre alle forze dell'ordine quando succedono queste cose, d'altronde li paghiamo anche per questo. Riprendi Natalinus. Natalino, riprendi, non riprende, dai, forse ha qualche problemino. Sì, va così, io mi ricordo, io ormai ho la mia età, ma mi ricordo quando ero ragazzino, le cose non erano certo così, e non solo da ragazzino, ma anche da giovanotto grande, per tanti motivi, tanto per il fatto del lavoro, perché tutti lavoravano, tutti vivevano da questo lavoro senza fare male a nessuno, se smettevi di lavorare in un posto o ti entravi nella serranda o nella porta accanto e avevi di nuovo un altro posto di lavoro nuovo, sicché non c'erano problemi. Però a parte questa situazione, poi c'è la onestà, nel senso che io mi ricordo, da ragazzo piccolo, 10 anni, 12 anni, una cosa del genere, babbo, mamma andavano a San Costantino, perché si sa, la gente ha sempre fatto queste promesse, no? E andavano e dicevano alle persone che ci abitavano nell'impetto, signora Maria, io faccio il nome così a caso, no? Guardi che io sto andando a San Costantino, faccia la cortesia, mi dia un'occhiata alla casa. Vai, non ti preoccupare, dicevano, vai Costanza, non ti preoccupare, Costanza è la mia madre. E ti lasciavano addirittura la porta socchiusa, non chiusa a chiave, no, socchiusa. E aspetta che rispondo al telefono, scusa, Ti stanno chiamando per la cena. Sì, è mia moglie che mi sta chiamando per la cena. E ti stavo dicendo, sicché potevi andare tranquillo, lasciavi la porta aperta, la passavi così, so chiusa. Addirittura la gente era talmente fedele e onesta che tu mancavi 3 giorni, quindi entrava e ti spolverava anche i mobili, perché si sa, durante l'assenza, con la porta aperta, soprattutto un po' di povero scendeva, erano cerca di entrare e di fare la pulizia sui mobili, sfoderati i mobili. Oggi invece, grazie, sono anche quei carabinieri davanti alla porta, ma vai, hai dei problemi. No, non è possibile, perché nemmeno i carabinieri riescono a salvarti. Per dirti oggi, fra, com'è la situazione odierna, o meglio, di questi anni. Purtroppo è così, manca quel senso di rispetto, di educazione che c'era una volta, ecco, tutto lì. Quei valori che ci hanno fatto grandi, e quindi bisogna difenderli e mantenerli. Ma speriamo bene comunque, dai. Se devi andare, Giulio, ti saluto, buona serata e buona cena. Sì, io devo andare perché mi hanno telefonato, sono già le 8:10, per cui ha sentato già apparecchiato mia moglie. Va bene, dai, comunque oggi si è esagerato, io non dico che bisogna essere e andare avanti con la vita di 50 anni fa, però adesso stiamo esagerando, anzi abbiamo troppo esagerato. Io naturalmente sto generalizzando, perché non mi dimentico mai che le persone serie ci sono sempre, però passano quei quattro scalmanati, quei quattro imbecilli che ti creano delle difficoltà nella vita moderna di oggi. Va bene, ciao Gianfra, salutoni anche a te e buonanotte, e quando andrai a letto e buona cena anche. Grazie per la chiacchierata, a domani, ciao. Ciao Gianfranco. Ciao Giulio, buona serata, alle prossime, è anche rientrato Natalino, avanti Natalì, dove eri finito? Scusa che lo saluto, ciao Natalino, salutoni, saluta la famiglia, ho sentito anche il sottofondo, ciao Natalì. Ciao Giulio, il fatto che mi sono dovuto spostare, stavo aiutando la 50, capito? E non ho potuto rispondere. Bravo Natalì, devi fare il tuo dovere sempre. E poi ho scoperto una cosa, c'avevo un TV box Gianfra e l'ho fatto funzionare con un decoder praticamente. Mi vedo tutto in HD, bello, veramente bello. Mi sono documentato su internet e guarda, di lusso veramente. Meglio così lo recuperi e lo utilizzi. Tanto tra poco credo che cambino. Quando era? Ottobre o novembre che c'era lo switch off? A novembre credo. No, il 20 ottobre. Ma io li vedo lo stesso anche senza quel TV box. E che me lo uso perché vedo tanti canali, tante cose, capito? Tutti legali, giustamente, quelli illegali no. Capito? Lo sto usando con Cudi, tu saprai cose sicuramente. E io ho messo quattro repository e funziona veramente bene. Tutti i canali della TV italiani, vedo qua, lo so veramente. Sì, lo conosco Cudi, si fa vedere anche quelli stranieri tra l'altro. È meglio così Natalì, a volte si butta tanta roba che funziona, io preferisco regalarla sempre perché ho sempre problemi di spazio, di posto, quindi quando mi capita qualcosa che c'è un iPad lo faccio fuori, ecco. Però c'è anche a chi servono queste cose. Sì, infatti io ce l'avevo qua buttato che non lo usavo perché non riuscivo a fare, non sapevo il meccanismo. Sì, di Cudi è un po', come dire, un po' seccante anche a seconda del device che usi. Però insomma, per chi si accontenta va più che bene, ecco. L'importante è sempre riuscire a cavarti a piede da queste cose qua. Sì, già ne tolgo piedi, se ho voglia di fare già faccio io. Capito, no? quelli stranieri vedo già, ma ho messo quelli italiani, tanto a me interessano quelli italiani più che altro, e li vedo tutti bene. Beh, non ne dubito. No, io invece credo, adesso non sono sicuro, ma credo che su Prime, quello di Amazon, stiano dando le partite, io ce l'ho però, proprio non è roba per me, io non ci tengo assolutamente a avere le partite. Però la pubblicità ho visto che ci sono comprese, non so se siano poi quelle più rinomate o quelle di scarto, diciamo così, dai. Io mi guardo solo l'Italia, le altre non mi interessano, quando c'è l'Italia me le guardo e sì, quindi anche tu sei come me più o meno. Non c'ha molti interessi nell'ambito calcistico. Io preferisco i film, anche dopo se in televisione non c'è niente, accendo e mi guardo qualche film. Tra l'altro sono anche abbastanza nuovi. E quindi tiriamo a campare così, no? Natali. Infatti. Vabbè dai, vi saluto che me ne faccio in QRT, che devo fare cosa qua, se no la mia 50 mi tira bastonate. E fa bene, così ti impari a obbedire, che le donne ci hanno sempre ragione. E così sia. Giulio se ne sarà già andato, ma vabbè, già l'ho salutato comunque. Sì, ti ha salutato, non l'hai sentito, ti ha salutato che lo hanno citofonato per andare a cena, se no anche lui prende colpi. E avete voluto la bicicletta, dovete pedalare adesso. Tu dici così perché non ce l'hai la bicicletta, adesso devo pedalare, sì. No, il fatto che io ce l'ho la bicicletta, però è quella elettrica. Già ci siamo capiti. No, quando ero piccolo io ho visto certe cose, ho detto meglio un gusto che 100 malanni, capito? Questo perlomeno come la pensavo io e forse anche come la penso adesso. Ognuno sa quello che può fare e quello che non può fare, in poche parole, no? E infatti già. E devo dire che comunque tutto sommato per cadere peggio, diciamo, sto bene come sono. E infatti anche io quando ero scapolo sono stato tanto tempo che vivevo da solo, ma stavo così bene, nessuno mi disturbava, facevo quel che mi pareva in campagna, ma proprio nessuno, qua un relax completo. Adesso con questa mi tocca stare bisticciando. Anche quello va bene, Natali, però ricordati una cosa, devi seguire sempre quello che ha detto Francesco, dovete anche bisticciare, fa parte un po' della vita, però la sera poi di nuovo fate la pace e vi stringete la mano. E come dice mia moglie. Infatti è così. Tanto Natali, il più l'hai fatto, no? Quindi puoi anche fare tutto l'altro. Infatti, ma guarda che io ci stavo per bisticciare perché stavo smanettando con quel TV box, no? Perché lei ci doveva vedere Rai 1 era, mi sembra. Aspetta che sto facendo cosa? Sto facendo. Dopo te li vedi pure. Tanto ci sono le TV tutte italiane, ti vedi tutti i canali. No. No, signora Zuia, che io devo riavere Rai 1. sì, ma guarda che io ho perduto tutta la mattina, no, tutta la sera, il pomeriggio, infatti non sono neanche entrato nel pomeriggio, perché anche da me ogni tanto viene qualcuno, nel telefonino non trovo questo, non trovo quell'altro, perché è nuovo, tracca tracca, su quello vecchio c'era tutto. Nazzalino, già lo so quanta pazienza ci vuole. Infatti, io non stavo neanche ascoltando Gianfra, perché non me ne viene più voglia. Qua non puoi fare nulla, è un macello. Mi manca il meglio. E quindi manco accendendo stavo, la verità, non ne avevo voglia. Poco fa ho acceso e ho sentito voi. Sì, Natale, ma puoi accendere quando c'è qualche chiacchierata da fare, passi 10 minuti. Anche stare sempre attaccati alla televisione, non ti credere che sia una cosa tanto bella. Poi io ho visto un po' quello che stanno dando, a volte anche noiosa. Quindi se ti vuoi fare una chiacchierata, noi appena è possibile, anche quando gli impegni anche per noi sono minori, noi entriamo, non è che... capito, ci fa piacere, più gente c'è meglio è. Sì, lo so Gianfra, lo so. Domani devo andare a fare una visita pure, chissà che visita è, dall'endocrinologo devo andare, ma non so di cosa si tratta. Cosa ti farà? Qualcosa ti faranno. C'è paura? No, paura non c'è cosa, ormai, da tutto quello che ho passato, mamma mia. Me lo immagino, lo so bene, purtroppo. Comunque, dai, arrivano e passano questi momenti così, meno male, e poi con un po' di fortuna si riescono anche a dimenticare quando sono momenti un pochettino più brutti del solito. Sì, infatti, già mi sto riprendendo, meno male, ho aumentato anche di peso, quindi vuol dire che sta andando bene la cosa. Era arrivato proprio a essere uno scheletro, cazzo, 52 kg sono arrivato a pesare. Quindi tutte le ragazze si giravano anche a guardare la tua linea. Sì, è uno scheletro, sembravo. Tutta cruciuppì, due roba. Gianfra, meglio la morte. Se è possibile, finché è possibile evitarla, è meglio la vita. Certo, se poi diventa pesante. Cosa vuoi ti dica? È tutta una questione di farcela o no, tutto lì, ci vuole pazienza, e questa vita la gente purtroppo è abituata a avere sempre la strada spianata, ma per chi ha vissuto e sa queste cose non è sempre possibile, i momenti brutti ci sono per tutti e bisogna anche avere il coraggio di affrontarli. Sì, infatti il coraggio mio ci voleva. Mi sono fatto operare 2 volte, figurati, già ce l'ho avuto il coraggio, se volevo uscirne. Così, altra scelta non ce n'era. Niente, Natalia, l'importante è esserci riusciti, poi riprendersi e riniziare tutto da capo, a volte si rinizia spesso da capo, l'importante è sempre averci la voglia e il coraggio di farle queste cose, perché a volte è proprio quello che manca, però ci si tenta almeno. Vabbè, là, ti saluto, che anche tu immagino è roba da fare, io ho già cenato e quindi sono libero da impegni adesso. Però devo aiutare la 50 lì e quindi tempo in rigidità. Ci sentiamo alle prossime, grazie per la chiacchierata Gianfranco. Ok Nathalie, adesso mi sa che deve mangiare, sta reclamando la cena sul cagnetto lì e si sente, quindi porta lo spazio magari. Va bene, alle prossime Nathalie, buonanotte e a domani se ci si, ciao. Se non mi ammazza quel medico, sì, ciao, ciao. Non ho capito, se non ti ammazza qualcosa? Se non mi uccide quel medico. Ma no, no, ricordati piuttosto che ti chiedono il Green Pass per accedere a seconda di dove vai. Cioè oramai in tutti i posti te lo chiedono, quindi non te lo dimenticare, se no non te ne fanno. Già lo so, me l'hanno già chiesto, che l'altra volta in diabetologia telefonavo e non mi rispondeva nessuno e sono dovuto andare di persona, perché c'era un'infermiera solo, perché cioè, anche lì hanno dimezzato, dice, e quindi se serviva ai pazienti non poteva rispondere a me al telefono per una cosa urgente, sono dovuto andare di persona. Beh, mi hanno chiesto il Green Pass prima di farmi salire, già lo so. Sì, oramai è così dappertutto. E così dappertutto. Va bene Natalia, ancora buonanotte e sogni d'oro. Tanto, ciao ciao. Ciao Fra. Sì, chi è? Ciao Marino, sono ciao Natalino. E voglio sapere cosa è successo oggi. Lo dico io, si stava buttando con un ragazzo dal ponte. Ok, ciao Gianfranco, ciao Antonio, sono tutto l'ascoltone, dai, io chiudo, ciao ciao. Sì, chi sei? Non t'ho riconosciuto. Marino, ciao. Ah, Marino, ciao. Ma sono riusciti poi a convincerlo? Sì. Sì, già l'ho preso, là. L'abbiamo salvato. Io ho preso una cosa. Se uno si vuole buttare, poi si butta, non aspetta gli altri a raccoglierlo direttamente, dai. Vabbè, chissà il problema che aveva, sinceramente, là. Siamo tutti mezzo incasinati, dai, in questo momento. Sì, purtroppo sì. E magari se era giovane, aveva lasciato la ragazza. Anche quello si è visto, no? Va bene, Mari, ciao, buona serata. Alle prossime. Ok, ciao Gianfranco, ciao ciao.